nella Grande Depressione. La nostra Grande Depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Quando il sole gli sfuga dentro a sta cella, se imbuga scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15 e quasi due minuti ed oggi è mercoledì di 10 di maggio. Oltre questa era Conta, trasmissione contro il carcere, trasmissione che viene onda ogni mercoledì, cioè ogni due mercoledì, quindi ogni 15 giorni, un mercoledì sì e uno no, e questo è il mercoledì sì. Allora, oggi è il 10 di maggio, prima di iniziare così a vedere che cosa ci regala la realtà in modificazione peggiorativa, questo lasciatecelo dire, poi lo analizzeremo dettagliatamente, la realtà carceraria. C'è un fatto che tra due giorni c'è il 40° anniversario, quindi ci corre l'obbligo, come si dice, di ricordarlo. Altre trasmissioni lo stanno facendo in questa radio, da tante voci, tanti spazi relazionali, però lo vorremmo ricordare pure noi con poche parole. Ma ricordate il 12 maggio del 77, 40 anni, lo ricordano dal vivo coloro che hanno qualche annetto, appunto 40 anni sono passati, sembra ieri, come si usa dire, un termine un po' retorico, però è così. Perché che successe nel 12 maggio del 77? Giornate molto intense e calde. Da qualche giorno, per fatti avvenuti qui nel quartiere San Lorenzo, c'era stato uno scontro tra polizia e manifestanti, e in questo scontro era morto un poliziotto. A quel punto il Passamonti, c'è anche la via dedicata qui tra San Lorenzo e l'università, a quel punto il buon Cossiga decise di vietare ogni manifestazione fino alla fine di maggio, quasi due mesi. Fatto grave. Voi oggi tranquillamente, tutte noi che vediamo televisione, i giornali eccetera, quando una cosa del genere avviene in un paese, quelli che non stanno proprio nell'elenco dei paesi super civili, ma per esempio anche in Turchia, che pure ha tanti amici in queste parti, dalla parte dei nostri governanti, ma quando viene così un governo vieta le manifestazioni, si dice, si urla a perdifiato che non c'è democrazia, non c'è libertà eccetera, e quando poi questo divieto viene trasgredito e la polizia di quel paese carica pesantemente, spara, massacra i manifestanti, si dice appunto tutti a condannare, cioè la corsa, la gara dei giornalisti a condannare quella situazione perché non è democratica. Bene, 40 anni fa è successo qui a Roma, non in un'altra parte del mondo, a Roma appunto. Aprile e maggio furono vietate le manifestazioni. Il Cossiga con tutto il governo decisero di vietare le manifestazioni. Non è una cosa normale, diciamo, vietare le manifestazioni, cioè significa tappare la voce alla società civile, quella che ha come possibilità di esprimere le proprie rivendicazioni, le proprie idee, i propri bisogni, i propri desideri, le proprie esigenze attraverso la manifestazione, che è pure sancito da tutte le costituzioni, compresa quella italiana. Bene, venne vietata la manifestazione. Siamo nel 77, quindi il quadro parlamentare è molto coeso, quello parlamentare, quello sociale, cioè quello sociale un po' meno. Nella società, secondo alcuni storici, si creano delle tensioni da guerra civile di bassa intensità, hanno detto alcuni. Però a livello governativo sono tutti d'accordo, quindi il divieto di manifestazioni viene stabilito dal governo, applaudito dalle opposizioni. Il PC in testa disse che andava stroncata quella emergenza sovversiva, perché aveva con sé una volontà di distruggere appunto l'avvento delle sinistre al governo. Questo era il progetto, questo era ciò che stava avvenendo. Bene, male, che ne so, cioè questo è successo. Allora, ovviamente il movimento, che allora era abbastanza compatto e anche non per niente buonino, cioè non era tranquillo, non voleva sottomettersi a tutti i diktat del potere, cominciò a cercare la strada per infrangerla. L'occasione fu data proprio il 12 maggio, perché era l'anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, del referendum che le forze di destra avevano richiesto per abolire la legge sul divorzio, e poi avevano perso. E quindi, per festeggiare questo anniversario di vittoria del referendum sul divorzio, i radicali chiesero di poter fare un sit-in. I radicali chiesero un sit-in, attenzione, non confondiamo le cose, perché il tempo passa, però non per questo bisogna accettare che una nube così copra la realtà di quello che è successo. La motivazione dei radicali fu abbastanza sottile dal punto di vista anche legale, cioè loro dissero: noi non vogliamo infrangere il divieto di manifestare, vogliamo però avere un sit-in in piazza per due motivi. Uno, perché è l'anniversario della vittoria referendaria del divorzio e queste cose vanno ricordate, vanno festeggiate, cioè non ce lo potete impedire. Staremo fermi in una piazza, la piazza era Piazza Navona, e in più, e questo dal punto di vista legale era dalla loro parte, stiamo raccogliendo le firme per altri referendum. Ricordiamo poi, per memoria, quel referendum di cui raccoglievano le firme in quei giorni erano quelle per abrogare la legge Reale, che fu perso quel referendum, per abrogare l'ergastolo, fu perso quel referendum, e altre cose così. Comunque, alcuni, il finanziamento dei partiti invece fu vinto, cioè stavano raccogliendo le firme. Ora, dal punto di vista legale, poiché il tempo di raccolta delle firme è un tempo limitato dalle leggi italiane, allora a impedire un giorno di raccogliere le firme in piazza, perché in piazza si raccolgono le firme, diventava difficile diciamo sostegno da parte del governo. Il governo non poteva dire: vabbè, vi impedisco di raccogliere le firme quel giorno, perché avrebbe sottratto un giorno al tempo stabilito dalla legge per raccogliere le firme. Quindi era molto in difficoltà. I radicali furbescamente utilizzarono questo vulnus per infrangere il divieto, e in effetti gli dovette dare quella piazza, perché non poteva impedire e la raccolta delle firme in un giorno. E quindi i radicali ebbero la possibilità di dare, certo con molti no, sì, ni, queste cose qui, però insomma in Piazza Navona ci andarono. A quel punto il movimento vide questa possibilità appunto di utilizzare quella diciamo presenza in piazza per infrangere. Quindi si recò in Piazza Navona, si chiamò il movimento, e non era solo una frangia il movimento, questo al di là delle chiacchiere che poi hanno fatto i cattivi, gli autonomi, quelli brutti cattivi, i sozzi, no, era un po' tutto il movimento. Considerate che c'erano anche alcuni parlamentari, per esempio Mimmo Pinto era un parlamentare eletto nelle liste di Democrazia Proletaria, DP, una formazione che veniva dallo scioglimento di tutti i gruppi extraparlamentari del passato e che comunque aveva preso alcuni parlamentari. Vinto proveniva dai disoccupati organizzati di Napoli ed era stato eletto, quindi era un deputato, lui e altri. E loro infatti, lui ed altri, contrattarono col questore che stava, i vicequestori, più di uno, ce n'erano tantissime forze dell'ordine, circondavano praticamente Piazza Navona per impedire, perché il sit-in non potevano vietarlo, però per impedire che appunto avevano saputo, capito qualcosa, ma che il movimento voleva partire in corteo. quando si vide il numero forte della presenza del Movimento in piazza, qualcuno, appunto come Mimmo Pinto e altri parlamentari, ma non ricordo, ma c'era pure qualcun altro, andò a contrattare col coi vicequestori dicendo vabbè, dateci un pezzo di Lungotevere perché appunto altrimenti non si reggono, questi vogliono farlo apposta. Altri dicevano vabbè, qui basta con le chiacchiere, partiamo in corteo. Insomma, sta di fatto che non si sa esattamente, perché poi Mimmo Pinto disse che gli avevano dato questa possibilità di fare un pezzo di corteo, altri dissero di no. Insomma, la cosa di fatto che la parte del movimento che era in piazza non ha preso e partì sul lungo e partì e imboccò il Lungotevere, andando verso Trastevere. Il corteo ovviamente fu circondato da tantissimi poliziotti. Considerate però che era il 77, maggio 77, un paio di mesi prima, marzo 77, c'era stato un altro corteo al quale le forze dell'ordine ebbero timore di avvicinarsi, perché era una manifestazione dei famosi 100.000 del marzo 77, che in realtà insomma mettevano un po' timore. E a quel punto il movimento, questo corteo si snodò lungo il Lungotevere, e arrivata all'altezza di Viale Trastevere piegò per Viale Trastevere e si fermò lì a quell'incrocio. Da una parte c'è Ponte Garibaldi, di qua c'è Viale Trastevere e scorre il Lungotevere. Si fermò lì, ci furono alcuni, si cominciò a parlare, comizi, a decidere anche che cosa fare, arrivati lì che cosa si fa, dove si fa, c'è il Ministero della Pubblica Istruzione a pochi centinaia di metri, c'erano altre cose, si cominciò a discutere lì. A quel punto, nel frattempo si erano fatte quasi le 19 e qualche cosa, cominciarono ad arrivare, la polizia era sul Ponte Garibaldi e dietro, da Ponte Garibaldi, dall'inizio di Ponte Garibaldi stava tutta via, tantissima polizia e carabinieri. A cominciare arrivava una pioggia di lacrimogeni che arrivavano verso questa la zona, erano i primi metri, i primi 100 metri di Viale Trastevere, dove era fermo il movimento. Bene, arrivarono queste cose, ad un certo punto si cominciò a sentire anche colpi d'arma da fuoco. Non è difficile, ma al di là di, non è che bisogna essere esperti, non è così. Il colpo d'arma da fuoco ha un suono molto secco rispetto invece al fucile che spara il lacrimogeno, che ha un colpo molto più smorzato. Sono ben allora che i lacrimogeni si vedevano quasi tutti i giorni, si eravamo abituati a sentirne l'esplosione. E cominciano ad arrivare dei colpi d'arma da fuoco. Bene, a un certo punto alcune persone caddero a terra, una di queste era Giorgiana Masi, 19 anni, studentessa del liceo Pasteur, cadde a terra, gli amici, i compagni la soccorsero, la portarono in una macchina e andò verso l'ospedale. Un'altra ragazza cadde a terra, si chiamava El Nascione, lei era stata colpita alla gamba, mentre Giorgiana, chiamata da tutte le amiche, i compagni, Giorgiana, però il suo nome vero era Giorgina, questo è secondario, arrivò in ospedale e arrivò morta in ospedale, perché il colpo alla schiena era stato mortale, mentre El Nascione rimase ferita alla gamba e dopo un po' di ospedale ne uscì. Rimasero ferite altre, in tutto disse la cronaca, 10 dimostranti oltre queste due, quindi più di un colpo d'arma da fuoco. Questa è la realtà. Per terra furono trovati bossoli di automatiche, calibro 9 e calibro 7,65. In genere il calibro 9 è deputato come arma ufficiale della polizia e dei carabinieri, delle forze dell'ordine, mentre il 7,65 è arma non delle forze dell'ordine, però in genere, questo perlomeno si sapeva allora, si è sempre saputo, molti agenti di polizia portavano la calibro 9, e anche una pistola più piccola, la 7,65, perché potevano utilizzare e che non passava per arma di ordinanza. Questi i fatti. Non si seppe mai, non c'è stato mai un processo. Il processo venne subito archiviato per ignoti, colpita da ignoti, e venne lì. Erano quegli anni lì, lo scontro tra istituzioni e governo, potere, magistratura da una parte e movimento dall'altra, molto secco e forte, non c'era mediazione. Però ovviamente non è che la cosa passò in silenzio, sul piano istituzionale venne messa a tacere, però libri, articoli, canzoni, tanto è stato prodotto su quel fatto lì, tantissime canzoni poi cantate dal movimento, un po' tutti sono cimentati, gruppi che allora andavano per la maggiore, sul fatto dell'uccisione di Giorgia Lamasi, furono fatti anche dei documentari e film, però ovviamente non c'è stata una verità sancita da un processo o da una cosa. Alcuni giornali, anche giornali ad esempio di sinistra moderata, attribuirono a Cossiga aver messo in piazza delle guardie in borghese vestite abbastanza come vestivano allora i compagni, cioè le persone in movimento, cioè con capelli lunghi, in golo, un maglione oppure l'eschimo, la borsa di Tolfe eccetera, però armati, che sparavano ovviamente al movimento, e però ben mimetizzati o nascosti, non tanto infiltrati, il termine è sbagliato, infiltrato è un altro, vuol dire un qualcuno che entra in una situazione e fa in modo che escano alcune posizioni, fomenta che per esempio si faccia una cosa invece che un'altra, ma chi sta invece è vestito con gli altri è semplicemente mascherato e spara, come si può chiamare mascherato, non infiltrato, termine sbagliato quanto mai, ma comunque, e già, questi i fatti, e il problema è talmente chiaro nella sua esplicazione che il mese dopo alcune compagne andarono lì nel punto, perché fu messo all'incrocio proprio tra Lungotevere e il Ponte Garibaldi, fu messo le fotografie tantissime, fu messo un qualcosa per ricordare appunto la morte di Giorgia Lamasi, e quindi all'inizio ogni mese dalla ricorrenza, ogni 12 del mese, poi ogni anno c'era presidio di compagne prevalentemente, ma anche compagni allora in quegli anni il movimento femminista era molto forte, quindi ovviamente la gestione di queste manifestazioni in ricordo di Giorgia Lamasi era del movimento femminista, però ovviamente partecipavano anche i compagni, cioè, e la polizia ogni volta caricava, fino a qualche anno fa, fino a 10 anni fa, mi ricordo nel 2000 mi pare ancora ha caricato. Va bene, questa è la situazione, il ricordo rimane, un ricordo questo per dire che insomma il ricordo affettuoso di una compagna di 19 anni che non può morire, non deve morire, e quindi la responsabilità chiaramente di chi fece quell'obbrobrio, però c'è anche da trarne dei ragionamenti politici, perché poi di questo ci occupiamo noi. Il problema è che la repressione c'è sempre, cambiano le forme, ma la repressione c'è. Lamentarsi perché in un certo periodo storico, in un certo paese, la repressione è forte, intollerabile, insostenibile, fastidiosa, si può pure fare, secondo me non serve a niente, perché poi basterebbe vedere altri periodi, per esempio questo 40 anni fa dimostrerebbe che adesso la repressione è all'acqua di rosa, se facessimo il confronto con quel periodo, ma non solo per il fatto di Giorgia Lamasi, ma i compagni fucilati per strada dalle forze dell'ordine sono stati tantissimi, le perquisizioni fatte senza mandato, cioè a livello proprio sudamericano, no? E non è che si deve fare un confronto. La repressione è un dato connaturato di una società divisa in classi e della lotta di classe stessa. Dentro la lotta di classe c'è la repressione delle istituzioni verso chi lotta, verso i movimenti, verso chi non rispetta l'ordine, non solo i movimenti ma anche coloro che non rispettano a modo loro quelle regole. Il problema è che bisogna capire la tendenza di quella repressione in quel momento, dove va, che cosa vuole ottenere, e cercare di contrastarla con gli strumenti adeguati. Lamentarsi non credo serva molto, ossia può servire per chi pensa che il lamento può portare a cambiare l'impostazione delle istituzioni. Come dire, si lamenta per dire quanto siete cattivi voi forze dell'ordine che fate i morti, qui tutta la gestione di alcune uccisioni di polizia negli ultimi periodi vanno in questo senso, le forze dell'ordine sono cattive, non democratiche, perché uccidono, ammazzano le persone, bisogna renderle più democratiche, E poi e che trovano sponde, perché tutti dicono: ma certo, sicuramente gli facciamo i corsi, gli metteremo lo psicologo, ma non è che il problema non è quello, non è che è un problema che le forze dell'ordine vanno rese attraverso un percorso psicanalitico o psicologico più buone. Il problema è che la repressione ha un compito ben preciso, esattamente come il caporeparto in una fabbrica, come deve mantenere i cittadini di parte bassa, quelli che non stanno bene in quell'ordine, all'interno di quell'ordine. E se uno rompe quell'ordine va represso, è una cosa abbastanza semplice da capire, non è un'opzione delle mele marce, cioè il poliziotto che spara, uccide o massacra di botte non è una mela marcia, sì, se stanno nelle mele marce dobbiamo levare, tutti il resto sono buoni. Certo, ognuno anche lì dentro sono, ciascuno è diverso dall'altro, come ogni essere umano dovunque si trova ciascuno è diverso dall'altro, ma non stiamo parlando di psicologia dell'essere umano, stiamo parlando di entità collettive che hanno un compito ben preciso, in questo caso la repressione ha un compito molto preciso e proprio scientifico per loro, che secondo il livello della lotta di classe deve intervenire per portarla all'interno della compatibilità. Tutto qua, semplice, non è che deve azzerare tutto, queste istituzioni, questo sistema accetta un livello di conflitto e accetta un livello di disordine sociale, l'uno è fatto dalle realtà politiche, diciamo sociali politiche, il conflitto, l'altro è il disordine sociale praticato dalle realtà proletario, semiproletario, sottoproletario, extraordinari, che per problemi loro non rispettano le leggi, prevalentemente quelle della proprietà privata, fanno rapine, furti, truffe, eccetera. E il problema è che tutti sanno che queste due cose non si possono eliminare, quindi non è, sarebbe illusorio anche da parte loro, però vanno tenute all'interno di una compatibilità. Un sistema rimane sistema così come è stato diciamo volto a produrre profitto per chi investe capitali, volto a mantenere le differenze di classe, anzi ad allargarle, volto a far diventare i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, se vengono rispettate le regole, mantenendo con l'elasticità. Quando si esce da queste regole, la repressione viene pesantemente a colpire. Questa è quello che dovremmo, quindi non lamentarsi perché la polizia mena o perché, ecco, in carcere questa cosa, ad esempio, e qui parliamo di carcere, è di una chiarezza estrema, lo sanno tutti i detenuti e le detenute dopo qualche giorno che sono entrati in carcere. Il pestaggio in carcere non è una cattiveria del secondino che è cattivo e che quindi bisogna fargli corsi con lo psicologo, perché pure questo stanno facendo. Beh, non è quello il problema, è che nel carcere, dove il regolamento e i ritmi sono e gli spazi sono molto stretti, infatti si dice ristretto chi sta dentro in carcere o ristretta, è chiaro che se non rispetti quelle regole lì si sta a contatto di gomito, la guardia non può più gestire la detenzione. Quindi la regola deve essere molto più rigida che non fuori, e quindi una volta che se tu esci da quella regola arriva la bastonatura, può essere diciamo di carattere ti tolgono un colloquio, ti tolgono l'aria, oppure il pestaggio, le due cose si equivalgono, a molti dà più fastidio che quando arriva la famiglia dopo 300 km di viaggio per esempio la rimandano indietro perché gli hanno messo il divieto ai colloqui, che non due cazzotti, ecco, quindi non si può stabilire meglio le botte o le repressioni, lasciamo stare, non è questo il problema, è che la repressione è tutte e due a seconda dei momenti, del carcere, della situazione eccetera, del tipo di detenuti, l'obiettivo è quello, però riportare dentro le regole l'atteggiamento delle persone detenute lì in carcere, dove è più stretto appunto, fuori uguale, si è soltanto un po' più di elasticità dovuta agli spazi larghi, non niente di più. Bene, chiudiamo questo piccolo spazio ricordando a Giorgiana Masi e passiamo ad altro. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim-fram sauce with the offs and fade, with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim-fram sauce with the offs and fade, with shafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat. right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried, I want the frim-fram sauce with the Austin Fay, with Chef Bonfa all on the side. Shoot, do, do, do, yeah, do, do. Chef Bonfa, yeah, do, say you didn't do. Allora, 15 e 28, quasi 29, passiamo a un altro argomento proprio del carcere, comunque che ha attinenza con la categoria carcere e repressione, anche quello lo aveva, questo però quello che sta succedendo. Dunque, come sapete, dopo anni e anni di discussione, ormai sono 16 anni, dal 2001 ai fatti di Genova, che cosa continua la, come dire, la tarantella poco piacevole questa per l'introduzione del reato di tortura nel codice italiano. Non siamo ancora in alto mare. Ieri pomeriggio c'è stata una seduta al Senato in cui era all'ordine del giorno l'ennesimo passaggio dalla Camera al Senato di questa legge, che ogni passaggio viene modificata, quindi deve tornare indietro. E anche questa, la notizia è proprio di ieri sera, è stata non è stata votata, cioè è stata per delle opposizioni di alcuni parlamentari, è stata rimandata alla Commissione del Senato perché la rielabori secondo alcuni sottoemendamenti, perché ci sono gli emendamenti sono stati tantissimi a questa legge, l'hanno praticamente svuotata, e poi ci stanno i sottemendamenti, quelli che modificano l'emendamento stesso. Insomma, l'ultimo, siamo appunto dopo 16 anni, ricordiamo i fatti, dopo i fatti di Genova, successe un fatto abbastanza clamoroso, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, cioè il comitato dei ministri europei riuniti riunione insomma della Corte Europea dei diritti dell'uomo, prese in esame alcuni casi di alcuni manifestanti di Genova del luglio 2001, ricordate, in cui a che avevano fatto esposto proprio alla, anche perché molti non erano italiani, erano stati massacrati in quel modo che sappiamo, tante persone, però poi in sede di corte quell'elemento che analizza caso per caso. E il caso di uno, il primo fu una persona, non mi ricordo il nome, e da quella stabilì che era stato sottoposto a torture, sono state tutte le analisi, medici, le cose, eccetera. Questa persona, quest'uomo, era stato sottoposto a tortura. La cosa grave che fece un po' rizzare i capelli in testa ai parlamentari europei, che pure non sono stinchi santi, lo sapete benissimo, però il problema era questo, che per le regole della Corte Europea dei diritti dell'uomo, cioè del Consiglio dei Ministri, di quella sorta di governo dell'Unione Europea, Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, per le loro regole ciò che era venuto a Genova era ravvisabile sotto il caso di tortura delle forze dell'ordine applicate a manifestanti. E quindi loro verificarono però che nello Stato italiano, nel codice penale dello Stato italiano, non c'era un reato che poteva assorbire quei fatti che loro definivano tortura. Quindi disse, come Madorbia è, qualcuno disse pure la parolaccia, ciascuno nella sua lingua, comunque, com'è possibile che noi, il Consiglio dei Ministri della Corte dell'Unione Europea, stabiliamo che lì ci sono stati casi di tortura, il primo caso, perché su casi singoli ovviamente, il primo, poi il secondo, il terzo, il quarto, eccetera, ne arrivano decine e decine, come mai sono verificati casi di tortura e in Italia, che pure fa parte dell'Unione Europea, non c'è una legge adeguata che sostiene, no? E che riprende, no? Rimbalza con questo reato? Rimasero un po' tutti stupefatti. In Italia non c'è il reato di tortura, caspiterina, perché in Italia non si tortura ovviamente, no? Le forze dell'ordine fanno il loro santo piacere. Allora a quel punto si sono messi al lavoro e hanno detto, vabbè, dai, bisogna questa figuraccia, e ogni tanto fa come quando ci fu il sovraffollamento delle carceri, oddio che vergogna, tutti a maglia nera, e fecero quei provvedimenti che poi appunto stanno per essere, sta ricrescendo la presenza in carcere, questo lo vedremo appresso. L'abbiamo già visto, ma lo rivedremo ancora. Allora, che succede? Allora, si mise al lavoro e cominciano a buttare giù alcune cose. Ovviamente le forze, non solo le forze parlamentari, ma in Italia, come penso in tutti i paesi, le forze dell'ordine sono in Italia sono tantissime, più di tutti gli altri paesi europei rispetto alla popolazione, sono molti di più. Quindi sono anche un bacino elettorale, perché ciascuna forza dell'ordine poi fa votare i componenti della propria famiglia, in genere avviene così, e quindi per non perdere quel bacino elettorale cominciano a tergiversare. Insomma, sono passati 16 anni, questa legge che ieri pomeriggio è andata al Senato diceva alcune cose, era stabilito che da 3 a 10 anni, intanto all'inizio misero un sacco di cavolate, tipo per esempio il reato di tortura, va bene, lo mettiamo, però deve essere reiterato, cioè fatto una volta sola, se io ti strappo le unghie una volta sola, ti stacco la lingua, ti impalo una volta sola, non è reato, lo devo fare almeno due volte, no? E vabbè, qualcuno cominciò a entrare in fibrillazione, cioè che cavolo stanno dicendo qui? Beh, però questo è il Parlamento italiano, e cui e che poi ci la cosa che ti fa, non che il Parlamento italiano sono questa banda di persone così che non definibili se non con una parolaccia che ovviamente ci esimiamo dal pronunciare, però queste persone qua, chiamiamole persone perché sono persone, però chiaramente con un aggettivo pesante a fianco, queste persone fanno queste cose vergognose, e il problema è che poi dei cittadini, che sono a volte persone per bene, gli danno anche il voto. questa è una cosa che ti fa proprio, dici, ma io mi vado a rotolare per terra nel letame, perché quello ti viene da fare, in quanto stando, poiché siamo nel letame, tanto vale metterci anche il proprio corpo, no? Perché che almeno siamo omogenei tra la tensione e vabbè. Comunque, consigliate, allora mo vi leggo quello che ha detto dopo questa sospensione. Perché questa sospensione? Allora, prima c'era la lettera, poi l'hanno tolto perché era un po' troppo vergognoso, però hanno detto, l'hanno fatto come reato normale. Ora l'ONU, quando stabilì questa cosa e raccolto dalla comunità europea e lanciato a tutti, disse: guardate che il reato di tortura è un reato specifico per le forze dell'ordine, perché dice queste cose, una persona, un cittadino, quando è privato della propria libertà è in piena ed è diciamo in mano di un'altra persona che può fare tutto su di lui o su di lei, è chiaro, se in quel momento fa queste malversazioni, quello diventa tortura. Cioè è specifico per le forze di quelli che hanno in pieno possesso altri cittadini che sono stati catturati. Per una persona normale ci sono già i reati. Se un gruppo di ragazzi prende un'altra persona, un altro ragazzo, lo porta in un sottoscala e lo riempie di botte, lì c'è pure il sequestro di persona, scatta il sequestro che arriva fino a 30 anni. Quindi ci sono già i reati, non c'è bisogno, per le persone normali ci sono già tantissimi reati, addirittura non è che mancano. Invece per le forze dell'ordine, perché loro hanno diritto di catturare e tenere in possesso un cittadino o una cittadina, e allora per loro è il reato, quindi è specifico per loro. Questa cosa nelle formulazioni delle leggi italiane, delle proposte delle leggi italiane, non c'è mai stata. È un reato normale di chiunque. C'era appunto quella discussa ieri, stabiliva da 3 a 10 anni il reato per torture, e veniva aumentato da 5 a 12 se questo reato veniva fatto da funzionario pubblico ufficiale in servizio. La cosa ieri, quando è stato rimandato di nuovo, quindi non è stata votata questa bozza di legge, che è brutta, però tanto almeno salvano la faccia per dire abbiamo anche noi reati di tortura, è stato rimandato alla commissione senatoriale perché riguarda i sottoemendamenti. Non tantissimi sono stati presentati. La senatrice capogruppo del MDP, quella scissione da Renzi che hanno fatto recentemente, Maria Cecilia Guerra, ha detto così: un giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non può essere considerata la tortura l'azione di un considerata la tortura azione di un pubblico ufficiale nell'ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l'aggravante dell'abuso di potere. Cioè, vi rendete conto che una persona, un parlamentare, una senatrice che parla in questo modo dovrebbe ritornare alle scuole elementari? Intanto non conosce l'italiano, perché dici una cozzaglia di cose che non hanno senso, ma addirittura contraddice, non ha logica interna questo periodo, queste tre righe. Un giusto va fatto, dice, vanno cambiata quella proposta, perché va fatto un giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione, che non può essere considerata tortura l'azione di un pubblico ufficiale nell'ambito della legittimità delle sue funzioni. Cioè, quando uno ti arresta, quando un pubblico ufficiale ti arresta, è chiaro che sta nella legittimità delle sue funzioni. E se allora, se lo fa in quel momento, non può essere, tranne che con l'aggravante dell'arbitrio di potere. Cioè, che vuol dire? Se ti arresta perché ti può arrestare, rientra in tutte le leggi di pubblica sicurezza che sono un frego e che vengono dal 1920, figuratevi un po', quindi non è che sta nell'ambito dei suoi poteri. In quel caso non è, solo se c'è l'abuso di potere, come si fa a stabilire? Cioè, questa è l'assurdità delle cose. Comunque qui tantissimi ne hanno parlato di questa vergogna italiana, insomma, sono 16 anni che c'è questo balletto abbastanza squallido. La Corte di Strasburgo appunto aveva detto: ma strano che la legislazione italiana ancora non ce l'ha, poi ha detto: ma guardate che non è che dovete discutere tanto, c'è già la declaratoria dell'ONU come indicazione a tutti i paesi, perché prendano quella declaratoria che sono 5 righe e la trasformino in legge. Quindi non è perché fate tutte queste discussioni, non si capacitavano, e però dice vabbè, niente, è rimasto tutto così. C'è poi in questa proposta anche gli coloro che istigano a compiere reati di tortura, la pena va da 6 mesi a 3 anni. Ma la cosa ancora più grave, questo ha fatto sbarellare un po' tutto il sistema istituzionale italiano, è che, attenzione, è che doveva prevedere, perché così dice la declaratoria dell'ONU ripresa dalla Corte Europea e quindi per un po' tutti i paesi europei, che le informazioni, le confessioni, le delazioni che una persona tira fuori sottoposto a tortura, cioè se una persona viene sottoposta a tortura e lì fa delle confessioni, quelle confessioni non hanno alcun valore in sede processuale. Chiaro questo? Cioè tutti i pentiti, tutti i pentiti che vengono, diciamo, come dire, esortati a diventare pentiti con dei maltrattamenti un po' pesanti, quindi con delle torture, quelle informazioni non possono essere utilizzate nei processi. Significherebbe, per esempio, in Italia, tanto per farne un caso, ad esempio, no? Andiamo a vedere tutti i processi fatti per, diciamo, il conflitto degli anni 70-80 in questo paese, che sono stati fatti e le accuse sostenute dalle delazioni di alcuni pentiti, molti dei quali sono stati diventati pentiti grazie a pesanti maltrattamenti eccetera, bene, tutti quei processi sarebbero annullati. Quindi 40.000 anni di galera, tanti sono stati diffusi così a pioggia, 40.000 anni di galera per i primi processi, per le attività, per il conflitto sociale aspro degli anni 70-80, sarebbero più o meno tutte annullate. Questa cosa rimane in sbattimento, perché la forza della giustizia italiana in questo caso che usa sempre i pentiti, e spesso sono pentiti appunto aiutati a diventare pentiti grazie a qualche, no, esortazione un po' pesante. Insomma, questa è la situazione, però siamo ancora in alto mare. Ora la commissione avrà un giorno, hanno detto, ma forse 2 giorni, per portare questi sotto emendamenti, e vedremo che uscirà fuori. Sarà da ridere. La prossima volta ci faremo ulteriormente delle risate da piangere. Here is where you always find me, always walking up and down, but I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams. that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Allora, 15:47, interrompere questa bella musica, ma il tempo scorre. Dunque, c'è un argomento molto interessante che è comparso nel giornale del Fatto Quotidiano di ieri, 9 maggio, a firma di Antonio Bevere. Antonio Bevere è stato un ex magistrato della Corte di Cassazione. Ma lui parla di un lavoro fatto da Roberto Roversi, un giurista molto capace, su una questione giustizia, che è una rivista online sulla giustizia, che parla del lavoro forzato, il lavoro forzato e i diritti negati conseguentemente. Che cos'è il lavoro forzato? Il lavoro forzato è partito da alcuni dati. I dati qualche che sono? I dati, intanto, i dati dell'INPS porta dei dati che nel 2016, l'anno scorso, sono aumentati i licenziamenti del 28%, quasi un terzo, in più di un terzo, tanto, 28% rispetto a quelli dell'anno prima. E invece sono crollati le vertenze e i processi fatti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, del padrone, dell'imprenditore. Molto pesanti. Allora, partendo da questi dati, ho cercato di capire perché sta avvenendo questo, perché sono crollate le richieste di le denunce e quindi le vertenze, anche le vertenze collettive, sindacali, ma anche quelle individuali, e quindi i processi fatti su denuncia da parte del lavoratore o dei lavoratori nei confronti del padrone. Perché appunto lui analizza il dato appunto del lavoro forzato. Che cos'è il lavoro forzato? È stato portato dalle cosiddette liberalizzazioni, cioè il fatto che intanto è stata appunto la prima cosa, l'aumento dei licenziamenti, è stata abrogata tutte gli impedimenti al licenziamento semplice, facile per l'imprenditore, del lavoratore. Questo ha portato alla una difficoltà del lavoratore nei confronti del padrone, l'aumento della licenziabilità e soprattutto la vulnerabilità, così la chiama, un termine molto esatto, vulnerabilità, cioè è più vulnerabile perché non ha contratti di lavoro fisso, il contratto di lavoro è rinnovabile, quindi se fa una denuncia chiaramente la rinnovo il contratto se l'è giocato. La gran parte dei lavoratori immigrati hanno difficoltà, anche a loro ancora di più, per una serie di motivi, per esempio intanto quelli di aver rinnovato il lavoro, ma anche quelli se hanno denunciato una volta un padrone, tutto il circuito di quei padroni non troveranno più lavoro. Ancora di più se sono immigrati illegali, denunciando manifestano la loro condizione, quindi rischiano di essere, di avere come premio il permesso di soggiorno, non l'avranno più e quindi rischiano addirittura l'espulsione. Cioè, tutto questo meccanismo ha portato riavvio del lavoro forzato. Ma guardate che il calo del 69% delle denunce dei lavoratori nei confronti dei padroni è enorme, è spaventoso, è stato un crollo, non è una diminuzione, è un crollo. Il 69%, quindi si avvicina al 70%, è spaventoso. Allora, inoltre la legge famosa, quella, tutta questa, quel cancan che hanno fatto i media sul caporalato, no? La legge del 29 ottobre dell'anno scorso. Il 29 ottobre dell'anno scorso è stata fatta la cosiddetta legge contro il caporalato. In realtà questa legge non dà nessuna garanzia a coloro che denunciano il caporalato, anzi, intanto addirittura ha diminuito le pene per l'eventuale caporale, poi siamo messo sotto processo, che dai 7 a 14 anni di reclusione che rischiava prima, adesso addirittura sono stati ridotti di molto. Ma a parte quello, non dà nessuna garanzia a coloro che fanno la denuncia. Cioè, tu fai la denuncia, hai l'onere di produrre prove nei confronti del caporale o del caporalato. Noi, quando usiamo la parola caporalato, la gran parte delle persone pensano trattarsi della raccolta dei pomodori o della frutta nelle campagne del sud Italia, fatto prevalentemente da lavoratori migranti, prevalentemente clandestini, cioè non, e quindi c'è questo, di questo se ne parla, un euro al giorno, due euro al mezzogiorno per fare la raccolta della frutta, della verdura, eccetera. In realtà non è solo quello è un dato, c'è. Ma oggi quasi tutte le grandi aziende, per non dire tutte, perché non si può mai dire tutte, però insomma siamo intorno al 99%, cioè quasi tutte le grandi aziende, rimaniamo col quasi, utilizzano per i lavori di manovalanza, carico e scarico delle merci, per esempio nel settore della logistica è stato chiarissimo, le grandi multinazionali, sono multinazionali della logistica, TNT, tutte, ma anche per esempio Poste Italiane, no? Che ha una struttura di trasporto SDA che trasporta le sue cose. Bene, utilizzano per i lavori appunto manuali, carico e scarico delle merci, un sistema tipico al caporalato, cioè non assumono queste persone in proprio, ma utilizzano delle cooperative che forniscono manodopera. E queste cooperative trattano i lavoratori, loro forniscono tante ore di lavoro e vengono pagati dalla multinazionale per quelle ore di lavoro fornite. Ma il rapporto di lavoro con quei scaricatori è del tutto così aleatorio, libero, cioè a volte quando metti il naso in queste situazioni, no? E si è stato fatto, molti compagni di movimento, compagni e compagne di realtà di movimento sono andati a mettere il naso in queste situazioni, la realtà di queste cooperative è veramente molto simile al caporalato delle campagne meridionali. Se non metti in moto una situazione per cominci a fare avvertenza sindacale eccetera, l'utilizzo di questi lavoratori prevalentemente migranti è veramente a livello di schiavismo, insomma. Giustamente dice Roversi, qui si tratta del ripristino del lavoro forzato. Questo è un caso molto importante. Considerate che il lavoro forzato, cioè la schiavitù, tanto per noi, che il lavoro forzato è schiavitù. La schiavitù significa lavoro non retribuito, punto. Questo è poi in tutte le forme. Sapete che è stato utilizzato nell'Expo di Milano. Sapete che, per esempio, mettiamoci tante virgolette, la cosiddetta sinistra in Italia, quella che sta nelle istituzioni, molti sono entusiasti di dire, c'era girata una proposta tempo fa di dire sì, è vero, mettiamo il lavoro gratuito, quindi la schiavitù, per quelle persone che non hanno possibilità di pagare il debito con la giustizia o con altre, facciamo fare il lavoro gratuito, quindi la schiavitù. È un po' allucinante, sta tornando questo meccanismo del lavoro forzato, il lavoro senza diritti, il lavoro senza salario, il lavoro appunto schiavistico, non è nemmeno il lavoro salariato, abborrito, combattuto eccetera, che però perlomeno ha una sua regola, il lavoro da tanto ore di lavoro corrisponde una certa paga, quello ormai sta diventando un residuo del passato. Vabbè, insomma, è un problema che andrebbe approfondito, ora non abbiamo tanto tempo ma ci torneremo sopra. Perché è molto importante. Altro tema, prendiamo senza stacco musicale perché il tempo scorre, sono le 15:55. Dunque, dicevamo prima, accennavamo en passant, che la popolazione carceraria torna a salire nelle carceri italiane. Siamo a 56.500, notevole. Si era arrivati a 50.000, 51.000, 52.000 sotto i provvedimenti cosiddetti svuota carceri, dovuti alla condanna della Corte Europea anche allora alla situazione carceraria italiana, ritenuta non civile, eccetera eccetera, degradante, disumana. E allora molti si domandano perché sta crescendo di nuovo la popolazione detenuta, visto che quelle leggi chiamate svuota carceri, tranne una, continua a rimanere. Qui il problema, come al solito, uno materiale, e l'abbiamo già detto e lo ripetiamo adesso, l'altro di carattere, se volete, teorico, ma teorico di buon senso, di ragionamento. Le leggi non cambiano la natura della realtà, la realtà è prodotta dal rapporto di forza tra le varie situazioni sociali, tra le classi, e quello, se non cambia il rapporto di forza tra le classi, tutte le leggi diventano come l'acqua che scende dal cielo e scorre sugli impermeabili, sugli ombrelli, cioè non cambia, non modifica nulla. Allora, quelle leggi sono ancora in vigore, nessuno l'ha abrogata. L'unica che è cessata di operare, perché aveva un termine di 3 anni, del 2015, dal 2013 al 2015, era la legge che aumentava lo sconto di pena per buona condotta, che in termini tecnici si dice liberazione anticipata, oggi è 3 mesi per ogni anno di buona condotta, fu portato a 5 mesi, quindi per aumentare lo sconto di pena, e quindi sono usciti un po' di persone. Quella, vabbè, è cessata alla fine del 2015 perché scadeva, aveva una scadenza, ma tutte le altre leggi sono ancora in vigore. E perché però non funzionano come hanno funzionato all'inizio? Il motivo è semplice, appunto, per quello che dicevamo prima, perché il clima, dice così questo Scandurra, questo personaggio che ragiona come tanti altri, anche Antigone, tanti hanno analizzato perché nonostante le leggi siano rimaste attive, nessuno le ha abrogate, non operano più. Perché non operano più? Ma sono tante in Italia le leggi che non operano. Perché? E questo dovrebbe far capire alle persone, soprattutto mi riferisco alle persone vicino a noi, ai compagni e alle compagne, che non si deve, non è il problema, non è cambiare la legge, è cambiare il rapporto di forza tra le classi o tra popolazione e istituzioni, cioè tra le parti in gioco. Altrimenti il resto sono chiacchiere da bar di periferia, da baretto dello sport che il lunedì discute sulle partite. Cioè, no, non scendiamo in questa trappola stupida. Dunque, il clima è cambiato. Per clima che sente? Il clima che si è cambiato, che c'è? Intanto sono aumentati gli ingressi in carcere, perché in quel periodo lì, dal 2012, quando ci sono state le sanzioni europee, e quindi gli hanno detto all'Italia datte una frenata perché altrimenti ti continuiamo a dare multe grosse e forti, è chiaro che avevano rallentato un po'. Non tutti venivano portati in carcere, perché le leggi ci sono, la messa alla prova, l'affidamento ai servizi sociali anche in sede processuale, senza che entri in carcere e poi le chiedi in carcere, senza fare il giro, quello che venne chiamato in termini tecnici, le porte girevoli, no? Tu entri in carcere, stai un mese e poi esci, a che serve? Te lo dà direttamente il giudice in sede di processo, la misura alternativa, l'affidamento in prova ai servizi sociali. E questa cosa, tutte queste cose rimangono, però non perché non, intanto perché le strutture adeguate a far operare una legge opera perché ci sono delle funzionari, istituzioni, associazioni, cose che preparano l'incartamento perché poi quella legge produca quel risultato, cioè per esempio la misura alternativa. Tutte queste sono state addirittura, non sono state aumentate, ma sono state svuotate dall'interno, quindi non ci sono più persone in grado di elaborare gli incartamenti necessari perché poi il giudice dica va bene, vai in misura alternativa. Perché queste cose? Perché si sono scordati? Perché non hanno senso? Non è così. È perché, appunto, a volte sono costretti a fare delle leggi. Questo succede per pressioni interne o per pressioni internazionali. Dopodiché, però, la realtà non cambia da questi presupposti. Cambia se il conflitto sociale assume delle caratteristiche in grado non solo di utilizzare quelle leggi esistenti, ma comunque, leggi o non leggi, di imporre una serie di regole propri, di interessi propri. Questa è la realtà di questa società, piaccia o non piaccia, e siccome queste sono le regole del gioco, come a pallone, se non rispetti i giochi con le mani non è che ti danno, ti si spellano dopo il secondo cartellino giallo. Va bene, questo per oggi finiamo qui perché sono le 16, lasciamo il microfono e il mixer alla trasmissione che segue l'ingorgo.